Quanti treni ho perso fermi alla stazione, sopra ogni biglietto c'è ancora il tuo nome. Se come il viso si mostrasse il cuore, non si avrebbe più paura di sbagliare. Come può qualcosa che non c'è fare tanto rumore? Quantomeno un'ombra parla di una luce, ed anche dentro il buio ci si può abitare. Sono un viandante sul mare che cerca un senso all'amore, anche se un senso reale probabilmente non c'è. Sono un pazzo di notte che non sa perdonare, un uomo che si dispera e lo disegna crudè. Sai che cosa c'è? Nonostante il tempo, le ferite, i dubbi, scelgo ancora te. Anche così lontana, lontana da me, lontana da chi ti voleva dare tutto l'amore che può colmare qualsiasi male o vuoto interiore che era nascosto dentro di te. Ora che sei partita, non mi sembra una bella giornata. La tristezza mi sembra infinita, anche quando pioveva con te mi sembrava lo stesso una notte stellata. Una notte stellata. Tu mi ricorderai, io la guerra, tu la pace come Tolstoi. E può finire il mondo, puoi toccare il fondo, come dice il nostro amore, un eterno ritorno. Nuda come una poesia, hai scelto di andar via. Ti ho letto tutta la notte ed anche se non sei più mia, ti aspetterei per anni alla stazione come Lidia. Per ogni grande amore c'è un addio Pablo Neruda. Sai che cosa c'è? Nonostante il tempo, le ferite, i dubbi, scelgo ancora te. Anche così lontana, lontana da me, lontana da chi ti voleva dare tutto l'amore che può colmare qualsiasi male o vuoto interiore che era nascosto dentro di te. Ora che sei partita, non mi sembra una bella giornata. La tristezza mi sembra infinita, anche quando pioveva con te mi sembrava lo stesso una notte stellata. Una notte stellata. Se ti guardavo e ci vedevo il mare, eri come un posto da visitare. A dirsi sempre ti amo, ci siamo fatti male. Scriverò il tuo nome sopra i muri come Banksy. Fossi un'incertezza dentro te, vorrei abitarci alla normalità. Non volevo mai abituarmi. Quando camminavo mi perdevo nei tuoi passi. Ora che sei partita, dentro sento una guerra Guernica. La tristezza mi sembra infinita, anche quando pioveva con te mi sembrava lo stesso una notte stellata.